ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Riemersi dalla mia frenesia lavorativa e per qualche giorno girai per casa in pantofole e vestaglia e mi curai. Ripresi anche lentamente a mangiare, ortiche bollite e patate. Nel frattempo la gatta aveva smesso completamente di occuparsi del suo selvatico rampollo. Se il gattino le si avvicinava goffamente, gli allungava un ceffone, facendogli chiaramente capire che la sua infanzia era ormai conclusa. Tigre si comportava come un vero monello. Non osava accostarsi a sua madre e in cambio tormentava tutto il giorno il povero lince. E quanta pazienza aveva quel cane! Avrebbe potuto uccidere il gattino con un solo morso. E con quanta attenzione lo trattava! Un bel giorno, comunque, anche per lince, sembrò giunto il momento di dargli una lezione. Afferrò il piccolo per l'orecchio, trascinando il gattino recalcitrante e pigolante attraverso la stanza e lo gettò sotto il mio letto. Poi, con fare compassato, se ne andò verso la nicchia della stufa per poter infine dormire in pace. Questo convinse perfino Tigre, ma essendo incapace di fare il bravo e di restare tranquillo, si precipitò su di me come sulla sua nuova vittima. Ero ancora molto stanca per la fatica della legna, ma Tigre non mi lasciò in pace. Pretendeva che continuassi a gettargli delle palline oppure a rincorrerlo. In particolare gli piaceva nascondersi per mordermi le gambe se gli passavo accanto senza saperlo. Gli mancavano solo due piccole mani con le quali applaudire quando mi vedeva saltare per lo spavento. Sua madre osservava tutto ciò con visibile disapprovazione. Credo mi disprezzasse perché non mi difendevo. E infatti a volte Tigre diventava una piaga. Ma pensando alla sorte dei suoi fratelli non avevo il cuore di allontanarlo. Mi ringraziava a modo suo, accoccolandosi sulle mie ginocchia per dormire, strofinando la testolina contro la mia fronte, oppure ritto sul tavolo, puntandomi la zampa anteriore sul petto per guardarmi attentamente con i suoi occhi di miele biondo. Aveva gli occhi più scuri di quelli della madre, d'un colore più caldo, e il naso incorniciato da un'aureola marroncina, come se avesse appena bevuto del caffè. Presi a volergli molto bene, e lui mi ricambiava con un affetto quasi tempestoso. D'altronde, nessuno gli aveva ancora fatto del male e non condivideva le tristi esperienze della madre. Voleva sempre accompagnarmi alla stalla. Lì sedeva sul fornello, osservandomi pieno di curiosità con i baffi ritti, mentre accudivo Bella e il vitello. Ci mise poco a capire che era Bella la fonte di quel latte dolce e subito dopo la mungitura dovevo riempirgli il piattino. Alle due grosse bestie, dopotutto per lui anche il torello era un gigante, si accostava solo cautamente e pronto alla fuga. Da quando Tigre si era attaccato a me, Lince era diventato un po' geloso. Un bel giorno lo chiamai, accarezzai prima lui, poi il gattino, e gli spiegai che nella nostra amicizia non era mutato nulla. Non so se avesse davvero capito qualcosa. Da lì in avanti tollerò il gattino, e poiché capiva quanto tenessi a Tigre, scelse la parte del protettore. Appena Tigre spariva tra i cespugli, Lince andava a riprenderlo, riportandolo per la collottola. La vecchia gatta non si curava di queste cose. Aveva ripreso la sua vita abituale, dormiva di giorno e di notte usciva in cerca di preda. Tornava verso l'alba per addormentarsi addossata alle mie gambe, facendo le fusa. Tigre aveva conservato un attaccamento infantile per l'armadio e dormiva nella sua vecchia cuccia. Ancora non aveva scoperto d'essere in realtà un animale notturno e preferiva giocare alla luce del sole. Visto che di giorno lo si poteva tenere d'occhio, ne ero ben contenta e se mi allontanavo col lince, lo chiudevo in una delle camere. I miei cupi presentimenti non mi avevano ingannato. Infatti, l'inizio di maggio fu freddo e piovoso. Grandinò e cadde perfino una neve. E fui ben contenta che i meli fossero già sfioriti. Possedevo ancora 3 mele grinzose e in un attacco di fame le mangiai tutte e 3 in una sola volta. Le ortiche si erano ricoperte di neve e con loro tutti i fiori primaverili. Ma avevo poco tempo per occuparmi dei fiori. Una volta, in primavera, andando a prendere del fieno nel fienile, vidi 3 o 4 violette. Allungai la mano, distrattamente, e urtai la parete. Mi era parso di sentire il loro profumo, ma appena sfiorai la parete con la mano, anche il profumo si dileguò. I fiori mi offrivano le loro piccole facce viola senza che potessi toccarli. Per quanto di poco conto, quell'evento mi turbò profondamente. La sera rimasi a lungo seduta accanto al lume, tigre sulle ginocchia, cercando di calmarmi. Accarezzando lentamente il gatto per addormentarlo, dimenticai a poco le violette e tornai a sentirmi di nuovo a casa mia. Questo è tutto ciò che mi è rimasto dei fiori di quella primavera. Il ricordo delle violette e della superficie fredda e liscia contro il palmo delle mie mani. Verso il 10 maggio iniziai a compilare un elenco degli oggetti che volevo portare con me sull'Alpe. Erano pochi, tuttavia sempre troppi se consideravo di doverli trasportare a spalla fin lassù. Scartai e scartai, ma gli oggetti erano sempre troppi. Alla fine divisi tutto in lotti. Dovevo calcolare diversi giorni per il trasloco, visto che in salita non potevo caricarmi eccessivamente. Ogni giorno valutavo come risolvere tutto nel migliore dei modi, con il massimo di razionalità. Il 14 maggio il tempo finalmente si rasserenò e fu il momento di piantare le patate. Del resto era già tardi, non potevo proprio aspettare oltre. Già durante l'autunno avevo ingrandito il campo. Nel corso del lavoro però mi resi conto di come fosse sempre troppo piccolo e ne vangai un altro pezzetto. Da quel lato conficcai dei ramoscelli in terra perché volevo sapere se il concime interrato avrebbe condizionato il raccolto. Ero stata costretta a rimuovere una parte della siepe e ne costruì dunque una nuova fatta di rami e tralci legnosi. Alla fine anche questo lavoro fu fatto. Mi restavano ormai solo poche patate, ma ero contenta di non aver intaccato quelle destinate alla semina. Il 20 maggio iniziai a traslocare. Preparai il grande zaino di Ugo e il mio e mi misi in cammino con l'ince. Nel prato dell'Alpe non c'era più neve e l'erba nuova scintillava verde e umida sotto il cielo azzurro. L'ince scorrazzò baldanzoso sul tappeto morbido. Qualcosa lo spingeva a rotolarvisi senza sosta, il che gli dava un aspetto un po' comico e molto goffo. Vuotai 2 zaini, bevvi del tè dal termos, poi mi stesi sul pagliericcio per riposare un poco. La capanna consisteva in una cucina con letto e una cameretta. Non resistetti a lungo sul pagliericcio, mi premeva ispezionare la stalla. Naturalmente era molto più spaziosa della mia e tenuta molto meglio della capanna. La fontana non era lontana, forse una 30 di passi, e sembrava trovarsi in buono stato, anche se la canna di legno incominciava già a marcire. Nella stalla c'era una piccola catasta di legna. Poteva forse bastare per 2 settimane. Durante l'estate, del resto, intendevo servirmi degli sterpi e dei rami secchi caduti. C'era anche una scure e non avevo bisogno d'altro. La cosa importante erano i vasi per il latte, svariati secchi e recipienti di terracotta che prima erano probabilmente serviti per produrre il formaggio. Era anche superfluo portare delle stoviglie da cucina, per una persona c'era quanto bastava. Notai che, al contrario di quello da cucina, il vasellame per il latte era meticolosamente pulito, come del resto anche la stalla rispetto alla cucina. Il baccaro doveva aver fatto una netta distinzione tra gli interessi privati e quelli di servizio. Decisi di lasciare a casa anche il lume e di accontentarmi delle candele e di una pila tascabile. Il piccolo fornello spirito, per contro, volevo portarlo, in modo da non accendere la stufa nei giorni caldi. Bella e il vitello avrebbero certamente profittato di quel trasferimento. L'Alpe era soleggiata e luminosa e inoltre disponeva di buon foraggio per mesi interi. E poi l'estate sarebbe passata presto e il sole e l'aria secca avrebbero forse guarito completamente i miei reumatismi. L'ince annusava con interesse tutti gli oggetti e sembrava assolutamente d'accordo con qualsiasi progetto avessi in mente. Uno dei suoi tratti più amabili era che trovava ben fatto tutto quello che facevo. sebbene questo atteggiamento non fosse privo di pericoli per me e spesso mi incoraggiasse a imprese poco sensate o perlomeno temerarie. Nei giorni seguenti portai poco a poco sull'Alpe tutto quello di cui mi pareva d'avere assolutamente bisogno e il 25 maggio venne il giorno del commiato dallo chalet. Durante gli ultimi giorni avevo lasciato Bella e il vitello al pascolo nella radura, di modo che il piccolo si abituasse un poco a camminare all'aperto. Quel cambiamento lo aveva messo in uno stato di gioiosa eccitazione. Fin lì aveva conosciuto solo l'eterna penombra della stalla. Quel primo giorno nel prato fu probabilmente il giorno più felice della sua vita. Lasciai un biglietto sul tavolo. Mi sono trasferita sull'Alpe, poi chiusi a chiave la casa. Nello scrivere il biglietto mi sorpresi dell'insensata speranza che ne traspariva, ma non potevo proprio fare altrimenti. Presi lo zaino, il fucile, il cannocchiale e l'alpestock. Conducevo Bella al mio fianco legata a una corda. Il torello camminava vicinissimo alla madre e non dovevo temere che si allontanasse. Inoltre avevo ordinato al lince di tenerlo d'occhio. Avevo sistemato i due gatti in una scatola munita di fori per l'aria, che avevo poi legato sopra lo zaino. Non sapevo in quale altro modo trasportarli. Presero molto male quel trattamento e dalla loro prigione continuarono a protestare indignati. Al principio Bella sembrò un poco turbata da quelle grida, poi si abituò e continuò a camminare tranquilla al mio fianco. Ero molto agitata e temevo che la mucca e il vitello potessero precipitare spezzandosi una zampa. Ma andò meglio di quanto avessi immaginato. Dopo un'ora, la vecchia gatta si rassegnò alla sua sorte e solo i patetici lamenti di tigre continuarono a rintronarmi nelle orecchie. Di tanto in tanto mi fermavo per concedere una sosta di riposo al torello che, dopo tutto, non era abituato a camminare. Il piccolo e Bella approfittavano di queste pause per brucare tranquillamente le giovani foglie degli alberi. Erano assai meno agitati di me e sembravano piuttosto soddisfatti di quell'escursione. Cercai di fare coraggio a Tigre, dicendogli qualche buona parola, con l'unico risultato che anche la vecchia gatta ripresa a sbraitare indignata. E così, infine, li lasciai gridare tutti e due cercando di non ascoltarli. Il sentiero a serpentina era in buono stato. Ci vollero comunque ben 4 ore prima che la nostra singolare processione raggiungesse l'Alpe. Era già quasi mezzogiorno. Lasciai pascolare Bella il vitello accanto alla capanna e ordinai al lince di tenerli d'occhio. Ero completamente esausta e non tanto per la fatica fisica quanto per la tensione nervosa. Alla fine anche lo sbraitare dei gatti era diventato quasi insopportabile. Una volta nella capanna, chiusi porta e finestra e liberai le due bestie che urlavano a squarciagola. La vecchia gatta si cacciò soffiando sotto il letto e Tigre, dopo un ultimo grido di protesta, fuggì nella nicchia della stufa. Cercai di consolarli, ma non ne vollero sapere e così li lasciai dove stavano. Mi distesi sul pagliericcio e chiusi gli occhi. Solo dopo mezz'ora fui in grado di alzarmi per andare all'aperto. Ritto sulle zampe posteriori, Lince stava bevendo alla fontana senza perdere d'occhio i suoi protetti. Lo elogiai accarezzandogli il pelo e il cane fu visibilmente contento d'essere esonerato dalla guardia. Bella si era sdraiata e il vitello giaceva addosso al suo fianco con un'aria talmente spossata da rimettermi subito in ansia. Andai a prendere un secchio d'acqua e lo posai accanto a quei due. In seguito avrebbero potuto bere alla fontana. Non c'era pericolo che si allontanassero troppo, dato lo stato di sfinimento in cui si trovavano. Meritavamo tutti un po' di riposo. Così tornai a stendermi sul letto. Dovetti chiudere la porta a causa dei gatti. Lince si era accucciato all'ombra sotto un cespuglio vicino alla capanna per fare un pisolino. Dopo pochi istanti, presi sonno anch'io e dormii fino a sera, per svegliarmi ancora stanca e svogliata. La capanna era sudicia e ciò mi dava molto fastidio. Ormai si era fatto troppo tardi per iniziare subito una pulizia radicale, per cui lavai solo le stoviglie indispensabili con sabbia e spazzola di ferro e misi una piccola pentola di patate sul fornello a spirito. Poi diedi aria al letto, trascinando sul prato il pagliericcio che odorava di muffa, per percuoterlo col bastone. Ne uscì una nuvola di polvere. Per il momento non potevo fare altro, ma mi proposi di stenderlo all'aperto ogni giorno di bel tempo a prendere aria. Il sole calò dietro gli abeti oltre i morbidi prati alpini e si fece fresco. Bella e il vitello si erano ripresi e brucavano placidamente nel loro nuovo prato. Avrei voluto lasciarli all'aperto durante la notte. Alla fine però non osai e li condussi nella stalla. Non avevo strame, per cui dormirono sull'assito. Versai altra acqua nell'abbeveratoio e poi li lasciai soli. Le patate nel frattempo erano cotte al punto giusto e le mangiai con burro e latte. All'ince toccò la stessa cena e, mentre stavo mangiando, anche Tigre, attratto dall'odore dolce del latte, sgusciò fuori dal suo nascondiglio. Beve un po' di latte caldo e poi, in preda alla curiosità, ispezionò ogni oggetto nella capanna. Mentre stavo per caso aprendo l'armadio, vi scivolò subito dentro. Per una fortunata coincidenza, credo, sia sull'Alpe che nello chalet di caccia c'era un armadio in cucina. Da quell'istante Tigre si mise l'anima in pace e accettò il trasferimento. Aveva il suo armadio a portata di mano e questo lo riconciliò con l'esistenza. Vi dormì per tutta l'estate. Sua madre si rifiutò di uscire da sotto il letto e così le posai un po' di latte lì accanto. Mi lavai con l'acqua fredda della fontana e andai a dormire. Lasciai la finestra aperta e l'aria fredda mi accarezzò la faccia. Mi ero portata solo un piccolo guanciale e due coperte di lana e rimpiangevo la mia trapunta morbida e calda. La paglia frusciava sotto di me, ero comunque ancora abbastanza stanca per riuscire ad addormentarmi quasi subito. Quella notte fui svegliata dal chiaro di luna che mi cadeva in faccia. Tutto era così estraneo e con stupore mi accorsi di provare nostalgia per lo chalet di caccia. Provai un leggero senso di sollievo solo udendo l'ince russare lievemente nella nicchia della stufa e cercai di riaddormentarmi, senza però riuscirvi per parecchio tempo. Mi alzai e guardai sotto il letto. La gatta non c'era più. La cercai ovunque nella capanna, senza successo. Doveva essere saltata dalla finestra mentre stavo dormendo. Richiamarla non aveva senso, non obbediva mai. Tornai a distendermi e con lo sguardo rivolto alla finestra attesi per vedere spuntare la piccola sagoma grigia. Ciò mi stancò a tal punto che ripresi sonno. Mi svegliai perché Tigre passeggiava avanti e indietro su di me, sfiorandomi la guancia col suo naso freddo. Non faceva ancora chiaro e per qualche attimo rimasi confusa, senza capire perché mai il mio letto si trovasse girato nell'altro senso. Tigre invece era completamente riposato e di umore giocoso. Allora mi resi conto dove mi trovassi e che la vecchia gatta era fuggita durante la notte. Cercai ancora una volta rifugio nel sonno per sottrarmi a tutti i fastidi della nuova giornata. Questo indignò Tigre. Conficcò gli artigli nella coperta di lana, miagolando con tanta forza che di dormire non se ne parlò più. Mi drizzai a sedere e accesi la candela. Erano 4:30 e il primo livido albore si mescolava al riflesso giallo della candela. L'euforia mattutina di Tigre era uno dei suoi difetti più fastidiosi. Mi alzai con un sospiro per cercare la vecchia gatta. Non era tornata. Con un senso d'oppressione scaldai un po' di latte sul fornello nella speranza di corrompere Tigre. Bevve effettivamente il latte, dopodiché però piombò in uno stato di sfrenata allegria, fingendo che le mie caviglie fossero grossi topi bianchi ai quali doveva fare la festa. Era naturalmente tutta una commedia. Mordeva e ringhiava senza peraltro scalfirmi la pelle. Bastò comunque a sgombrarmi la testa dall'ultima traccia di sonnolenza. Quel baccano aveva inoltre svegliato l'ince, sgusciò dalla nicchia della stufa per accompagnare i presunti combattimenti di Tigre con un latrato di incoraggiamento. L'ince non conosceva orario per dormire. Non appena mi occupavo di lui era sveglio come un grillo. Quando non gli davo retta e lui non riusciva a obbligarmici, semplicemente si addormentava. Se fossi improvvisamente scomparsa, credo che si sarebbe adagiato in un sonno eterno. Non riuscivo a condividere l'umore esaltato di quei due perché pensavo alla vecchia gatta. E così spalancai la porta e l'ince si precipitò all'aperto, mentre Tigre proseguiva le sue scatenate piroette. Il cielo cinereo andava tingendosi di rosa a oriente. E il prato scintillava di rugiada. Una bella giornata stava per iniziare. Fu una strana sensazione poter scorrere con lo sguardo un'ampia distesa senza essere ostacolati dagli alberi e dalle montagne. Ma non fu subito piacevole e liberatoria. Gli occhi dovevano prima abituarsi a quel vasto orizzonte dopo un anno trascorso nella conca affossata in fondo alla valle. Faceva un freddo sgradevole. Rientrai in casa per indossare qualcosa di caldo. L'assenza della gatta mi deprimeva molto. Compresi immediatamente che non si aggirava nei dintorni e che aveva ripreso il cammino della valle. Ma era poi veramente riuscita ad arrivarci? Avevo seriamente tradito la sua fiducia, del resto non ancora ben consolidata. La sua scomparsa gettò un'ombra cupa sulla giornata estiva che stava per iniziare. Non potevo farci niente e così, come ogni altro giorno, mi dedicai al mio lavoro. Munsi Bella, poi la spinsi nel prato insieme al vitello. Tigre non pareva avere l'intenzione di scappare, era ancora giovane e adattabile. Poteva anche darsi non si sentisse abbastanza forte per cavarsela da solo. Quella mattina affogai i miei dispiaceri nel tè. Penso volentieri al tempo in cui possedevo ancora del tè. Il suo profumo mi rianimò e cercai di convincermi che la vecchia gatta avrebbe trascorso l'estate nello chalet di caccia per accogliermi gioiosamente al mio ritorno in autunno. Perché mai non doveva essere possibile. In fin dei conti era una femmina scaltra, abituata a tutti i pericoli. Rimasi per un pezzo seduta immobile al tavolo lercio e attraverso la piccola finestra vidi il cielo tingersi di rosso. Lince stava ispezionando i dintorni. A Tigre, nel bel mezzo di un gioco, erano venute meno le forze e si era trascinato fino all'armadio per fare un pisolino prolungato. Nella capanna il silenzio fu completo. Qualcosa di nuovo stava per iniziare. Ignoravo cosa mi avrebbe portato, eppure, lentamente, la nostalgia e la preoccupazione per l'avvenire mi abbandonarono. Vedevo la distesa dei prati alpini e sullo sfondo un tratto di bosco e sopra il grande arco della volta celeste, al cui limite occidentale la luna pendeva come un pallido disco, mentre a oriente si stava levando il sole. L'aria era tagliente e costringeva a respirare profondamente. Cominciai a trovare l'Alpe bella, estranea e insidiosa, ma, come tutto ciò che è estraneo, piena di fascino segreto. Alla fine mi strappai da quella veduta incantevole e mi accinsi a ripulire la cucina. Accesi la stufa economica per avere acqua calda, poi, servendomi d'una vecchia spazzola trovata nella cameretta, strofinai con la sabbia il tavolo, la panca e il pavimento. Fui costretta a ripetere due volte l'operazione facendo scorrere fiumi d'acqua a tale scopo. Dopodiché la capanna continuava a essere poco accogliente, ma perlomeno pulita. In alcuni punti mi toccò raschiare il sudiciume col coltello. Non credo quel pavimento avesse mai assaporato l'acqua prima d'allora, perlomeno non ai tempi del baccaro che ammirava le pin-up girl. La foto, comunque, la lasciai appuntata all'armadio. Col tempo finì perfino col piacermi. Mi ricordava un poco le mie figlie. Ripulire la capanna era un lavoro che facevo volentieri. Lasciai la porta e la finestra spalancate per far circolare l'aria fresca. Nel corso della mattinata, man mano che il pavimento si asciugava, prese a brillare con riflessi rossastri e io fui orgogliosa di questo successo. Avevo steso il pagliericcio nel prato e il lince lo usò subito come cuccia. Quando lo scacciai da lì, si ritirò risentito dietro la capanna. Detestava le pulizie di casa perché gli avevo proibito di gironzolare sul pavimento bagnato. Dopo quel bagno d'acqua e di aria fresca, la capanna perse il suo odore acre e io cominciai a sentirmi un poco più a mio agio. A mezzogiorno mangiammo patate con latte e realizzai di dover procurare della carne appena possibile per il bene di Lince. Dovendolo fare, decisi di farlo al più presto, tanto più che la regione mi era ancora sconosciuta e non potevo contare su un successo immediato. In effetti, solo dopo due giorni, alla fine di quattro battute infruttuose, riuscii a sparare a un giovane cervo per poi trovarmi di fronte a un problema molto sgradevole. Qui non possedevo una fontana dove tenere al fresco la carne, Dovevo quindi consumare rapidamente le parti deteriorabili per conservare i resti cotti o arrostiti nella piccola camera fresca. Ne derivò che tutta l'estate vivemmo un alternarsi di tempi molto grassi e molto magri, costringendomi ogni volta a buttar via parte della carne ormai guasta. La depositavo nel bosco, lontano dalla capanna, dove regolarmente spariva durante la notte. Qualche animale selvatico deve essersi goduta molto quell'estate. Con l'alimentazione, essendomi rimaste solo poche patate, le cose si erano messe piuttosto male. Eppure non abbiamo mai veramente sofferto la fame. Per tutto il tempo che rimasi sull'Alpe, non presi appunti. In realtà mi ero portata il calendario e depennavo coscienziosamente ogni giornata, ma non vi annotai nemmeno gli avvenimenti importanti come la fienagione. Ma il ricordo di quel tempo ha conservato la sua freschezza e scriverne non mi è difficile. Mai scorderò il profumo dell'estate, le piogge temporalesche e le sere sfavillanti di stelle. Trascorsi il pomeriggio del primo giorno sull'Alpe, seduta sulla panca davanti alla capanna a scaldarmi al sole. Avevo legato Bella a un piolo. Il torello non si allontanava mai molto dalla madre. Già dopo una settimana rinunciai a quelle misure di sicurezza. Bella era d'indole docile, senza salti d'umore, e non mi causava mai la minima difficoltà, e suo figlio, a quel tempo, era un vitello esuberante e felice. Si faceva più grosso e robusto a vista d'occhio, e ancora non gli avevo trovato un nome. Naturalmente, per un vitello esistevano molti nomi, ma avevano tutti un suono melenso e non mi piacevano. Inoltre, si era già abituato a essere chiamato Toro e mi seguiva come un grosso cane. Così lasciai le cose come stavano e col tempo cessai anche di pensare a dargli un altro nome. Era una creatura ingenua, fiduciosa e, come potevo chiaramente vedere, prendeva la vita per un unico grande divertimento. Ancora oggi pensare che Toro abbia goduto una giovinezza tanto felice mi riempie di gioia. Non udii mai una parola dura, mai fu picchiato o preso a spintoni. Gli fu permesso di bere il latte della madre, brucare la tenera erba dell'Alpe e di notte dormire nel caldo alone vaporoso di Bella. Per un torello non esiste vita migliore e almeno per un certo tempo ha avuto un'esistenza felice. Se fosse nato in un'altra epoca o nella valle, sarebbe stato da tempo condotto al macello. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlena Ausofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.